Parigi, 18 brumaio dell'anno settimo. All'estero, 9 novembre 1799. Alla nostra Repubblica viene data una nuova Costituzione. È ritornato e ha quest'oggi fatto un colpo di Stato. Da un paio di ore è capo supremo dello Stato francese. Già parecchi deputati e generali sono stati arrestati. Giambattista dice che possiamo attenderci da un momento all'altro una perquisizione domiciliare. Per me è impensabile. Se il mio diario cascasse in mano prima del direttore di polizia Fouché e poi dello stesso Napoleone, tutti e due riderebbero a crepapelle sul conto mio. Perciò mi affretto a registrare anche questa notte tutto ciò che è avvenuto. Poi chiuderò a chiave la serratura del mio libro e darò le mie note a Giulia perché le custodisca. In fin dei conti, Giulia è la cognata del nostro nuovo padrone. Ed è sperabile che Napoleone non manderà mai la sua polizia a frugarle nel cassettone. Io seggo nel salotto della nostra nuova casa in Rue Cisalpine. Sento Giambattista che cammina su e giù nell'attigua stanza da pranzo, su e giù, su e giù. Se hai degli scritti pericolosi, dalli a me, gli ho gridato or ora. Li porterò a Giulia col mio giornale. Ma Giambattista ha semplicemente scosso il capo. Non ho, come tu dici, di questi scritti pericolosi, e la mia opinione circa il suo alto tradimento a Napoleone la conosce abbastanza. Fernando si dava da fare nella stanza e io gli domandai se c'era sempre molta gente ferma in capannelli davanti alla nostra casa. Egli rispose di sì. E che cosa vorrà questa gente? Io mi torturavo il cervello. Fernando mise una candela nel candelabro davanti a me e disse: aspettano, vogliono vedere che cosa faranno al nostro generale. Dicono che il nostro generale è stato invitato dai giacobini a prendere il comando della Guardia Nazionale e... Fernando si grattò la testa rumorosamente, rimase sopra pensiero. Rifletteva se dovesse dirmi la verità. Sì, la gente crede che il nostro generale sarà arrestato perché sono già stati a prendere il generale Moreau. Mi preparo a trascorrere una lunga notte. Giambattista nella stanza vicina passeggia in su e in giù. Io scrivo. Le ore volano via l'una dopo l'altra e noi aspettiamo. Sì, è tornato improvvisamente, proprio come io avevo presentito. 4 settimane e 2 giorni fa, alle 6 del mattino, un corriere stremato smontò da cavallo davanti alla casa di Giuseppe e annunciò: il generale Bonaparte, solo col suo segretario Bourrienne, è sbarcato nel porto di Fréjus con una piccola nave da carico che ha potuto sfuggire a tutte le insidie degli inglesi. Ha noleggiato una carrozza di posta speciale e potrà arrivare a Parigi da un momento all'altro. Giuseppe si vestì in tutta fretta, corse a prendere Luciano a casa sua e i due fratelli andarono ad appostarsi nella Rue de la Victoire. Le loro voci svegliarono Giuseppina. Quando ella seppe ciò che era accaduto, cavò fuori in gran furia dall'armadio il suo abito più nuovo, impaccò di volo il suo cofanetto del trucco e si precipitò come una forsennata nella sua carrozza. Andò incontro a Napoleone nei sobborghi meridionali della città. Solo quando fu in carrozza si diede il rossetto. Il divorzio doveva essere impedito. Napoleone doveva parlare da solo con lei prima che lo potesse influenzare Giuseppe. La vettura di Giuseppina era appena fuori di vista che la carrozza di posta di Napoleone entrava nella Rue de la Victoire. Le due carrozze si erano passate vicine, l'una rasente all'altra. Napoleone balzò a terra, i due fratelli gli corsero incontro, seguì un gran battersi sulle spalle dall'una e dall'altra parte, poi tutti e tre si rinchiusero in uno dei salottini. Verso mezzogiorno, Giuseppina, stanca, stremata, rincasò e aperse l'uscio del salottino. Napoleone la squadrò da capo a piedi. Madame, non abbiamo più nulla da dirci. Domani presenterò la domanda di divorzio. Vi sarò grato se in questo frattempo vorrete prendere dimora la Malmaison. Io intanto vedrò di trovare una nuova casa per me. Giuseppina ruppe in singhiozzi. Napoleone le voltò la schiena e Luciano l'accompagnò di sopra nella sua camera da letto. I tre fratelli continuarono la loro discussione per ore. Più tardi vi partecipò anche l'ex ministro Talleyrand. Intanto a Parigi si era diffusa in un baleno la notizia che il generale Bonaparte era tornato vittorioso dall'Egitto. Dei curiosi si raccolsero intorno alla sua casa, reclute entusiaste accorsero da ogni parte gridando «Viva Bonaparte!» E Napoleone comparve alla finestra e salutò la folla. Intanto Giuseppina Se ne stava buttata sul suo letto, tutta scossa da un pianto convulso, mentre sua figlia Ortensia cercava di propinarle come calmante un decotto di camomilla. Solo verso sera Bourienne e Napoleone rimasero soli. Napoleone incominciò a dettare lettere ai innumerevoli deputati e generali per annunciare loro il suo felice ritorno. Poi comparve da lui Ortensia, sempre angolosa e magra, sempre scolorita e timida, ma già vestita da signora, il naso lungo, un po' curvo, conferiva al suo volto un'aria di saccenteria. «Non vorreste parlare con la mamma, papà Bonaparte?» bisbigliò. Ma Napoleone la scacciò come una mosca noiosa. «Solo a mezzanotte», congedò Bourienne. Mentre ancora stava pensando su quale degli zoppicanti sofà dorati potesse farsi il suo giaciglio per la notte, poiché Giuseppina era sempre nella camera da letto, un alto singhiozzare di là dall'uscio interruppe le sue meditazioni. In fretta corse alla porta e la chiuse a chiave. Giuseppina stette 2 ore intere a piangere dietro quella porta. Poi lui aprì. La mattina dopo si ridestò nella stanza da letto di Giuseppina. Tutti questi avvenimenti me li ha serviti caldi caldi Giulia, che li ha saputi da Giuseppe e da Bourienne. E sai che cosa mi ha detto Napoleone? Aggiunse ancora. Ha detto: Giulia, se io divorzio da Giuseppina, tutta Parigi saprà che lei mi ha tradito e rideranno di me. Se invece resto con lei, si vedrà che non ho nulla da rimproverare a mia moglie e che si tratta soltanto di chiacchiere maligne. In questo momento non posso rendermi ridicolo, per nessun conto. Un curioso modo di ragionare. Non è vero, Desiree? E che faccia ha? Giulia si fece pensierosa. Ecco, è cambiato. Forse dipende dalla sua pettinatura. In Egitto si è fatto tagliare i capelli e così la sua faccia sembra più piena e meno irregolare. Ma non è soltanto questo. No, certamente. Del resto. Lo vedrai tu stessa domenica. Verrete bene al desinare di Mortefontaine. I parigini eleganti hanno una casa di campagna e i poeti hanno un qualche giardino per potersi ritirare e meditare tra le ombre. E poiché Giuseppe si sente insieme parigino elegante e poeta, così si è comprato la bellissima villa Mortefontaine con il suo grande parco. È lontana 1 ora di carrozza da Parigi e domenica prossima siamo invitati a desinare laggiù con Napoleone e con Giuseppina. Certo, non vi sarebbero stati gli avvenimenti di oggi se al ritorno di Napoleone Giambattista fosse stato ancora ministro della guerra, ma poco prima egli aveva avuto una delle sue tempestose discussioni col direttore Sieyès e in un impeto di rabbia aveva dato le dimissioni. Nel pomeriggio di quella domenica, nella quale dovevamo recarci a Mortefontaine, udì improvvisamente una voce ben nota nel nostro salotto. «Eugenia, voglio vedere il mio figlioccio!» Io corsi di sotto e trovai lui, abbronzato dal sole, con i capelli tagliati corti. Volevamo fare una sorpresa a voi e a Bernadotte. Voi due siete invitati a Mortefontaine e così Giuseppe e io abbiamo pensato di venirvi a prendere. Devo pur conoscere vostro figlio e ammirare la nuova casa. E da quando sono tornato ancora non ho visto il camerata Bernadotte. Avete un ottimo aspetto, mia cara. Disse allora Giuseppina, che snella e aggraziata si appoggiava alla porta della veranda. Comparve Giambattista e io scappai in cucina e pregai Maria di fare il caffè e di servirci dei liquori. Quando tornai, Giambattista era già andato a prendere Oscar e Napoleone si chinava sul nostro involtino e gli faceva titit e cercava di fargli il solletico sotto il mento. Oscar non ci stava e incominciò a piangere forte. Avete pensato alle giovani forze per l'esercito, camerata Bernadotte? Disse ridendo Napoleone e batté amichevolmente sul braccio di Giambattista. Io salvai nostro figlio dalle mani di suo padre, che lo teneva rigido, distante da sé, e dichiarava che era notevolmente bagnato. Mentre stavamo bevendo il caffè, dolce e amaro, di Maria, Giuseppina mi trascinò in una conversazione sulle rose. Le rose sono la sua passione e io avevo sentito dire che ella si propone di impiantare alla Malmaison uno splendido giardino di rose. Ora ella scoprì che davanti alla nostra veranda crescevano alcune miserevoli piante di rose e voleva sapere se me ne occupo io e in che modo. Così non stetti ad ascoltare il colloquio tra Giambattista e Napoleone, ma Giuseppina ed io ammutolimmo di colpo quando Napoleone disse: Ho sentito che se foste ancora ministro della guerra mi deferireste a una corte marziale e mi fareste fucilare. Camerata Bernadotte, si può sapere che cosa mi rimproverate? Oh, credo che voi conosciate il nostro regolamento di disciplina altrettanto bene come lo conosco io, camerata Bonaparte, disse Giambattista e aggiunse con un sorriso. Anzi, ancora meglio, suppongo. Voi avete avuto il vantaggio di frequentare la scuola di guerra e di incominciare il vostro servizio attivo da ufficiale, mentre io ho servito lungamente da semplice soldato, come forse avrete saputo. Napoleone si sporse in avanti e cercò di incontrare lo sguardo di Giambattista. In quel momento mi resi veramente conto del mutamento che era venuto in lui. I capelli corti facevano apparire il suo capo più tondo e le sue scarne guance più piene. Prima d'allora non avevo mai notato come fosse pronunciata la linea del suo mento. Esso risaltava quasi angoloso. Ma tutto ciò non faceva che accentuare il mutamento. Non lo determinava. Predominante era in lui il sorriso. Quel sorriso una volta così amato e poi così temuto da me, che allora illuminava soltanto raramente di sfuggita il suo volto sparuto. Adesso quel sorriso non abbandonava più la sua bocca, era divenuto insistente, mendicava ed esigeva insieme. Ma che cosa esigeva questo incessante sorriso e a chi era rivolto? A Giambattista, naturalmente. Giambattista doveva essere conquistato, doveva diventare un amico, un fedele, un seguace, entusiasta. Io torno dall'Egitto per mettermi di nuovo al servizio della patria, giacché considero terminata la mia missione africana. E intanto voi dite che i confini della Francia sono ben difesi, che come ministro della guerra voi avete cercato di mettere in campo 100.000 uomini di fanteria e 40.000 di cavalleria. Quelle poche migliaia di uomini che ho lasciato giù in Africa non possono dunque significare granché per l'esercito francese che voi avete accresciuto di 140.000 uomini, mentre un uomo come me per la Repubblica in questa situazione così disperata. La situazione non è affatto disperata, disse Giambattista tranquillo. No, sorrise Napoleone. Dal momento in cui sono tornato mi si dice da tutte le parti che il governo non è più padrone della situazione. I realisti si fanno di nuovo sentire in Vandea e certi ambienti di Parigi corrispondono apertamente con i Borboni in Inghilterra. Dal canto suo, invece, il Club du Manège sta preparando una rivoluzione giacobina. Voi sapete senza dubbio che il Club du Manège ha intenzione di rovesciare il direttorio, camerata Bernadotte. Oh, per quanto riguarda il Club du Manège, voi siete certo meglio informato di me sulle sue mire e sulle sue intenzioni, disse Giambattista lentamente. I vostri fratelli, Giuseppe e Luciano, ne sono stati recentemente i fondatori e ne presiedono le riunioni. Secondo me è dovere dell'esercito e dei suoi capi di raccogliere tutte le energie positive, di garantire la pace e l'ordine, di trovare una forma di governo che sia degna degli ideali della rivoluzione, disse Napoleone insistente. Poiché questo colloquio mi annoiava, mi volsi di nuovo a Giuseppina, ma con mio grande stupore gli sguardi di lei stavano fissi, pieni di attenzione spasmodica su Giambattista, come se la sua risposta fosse decisiva. Qualunque intervento dell'esercito o dei suoi capi per provocare con la forza un mutamento della Costituzione, io lo considero alto tradimento, fu la risposta di Giambattista. Il liquido splendore era scomparso dagli occhi di Napoleone. Adesso il suo artificiale sorriso appariva lugubre. Così voi procedereste con le armi alla mano contro quel gruppo di vostri camerati a cui la nazione affidasse il compito di salvare la Repubblica? Una larga risata ruppe improvvisamente la tensione del momento. Giambattista si abbandonò tutto, cordiale e spontaneo, ad un impeto di buon umore. Camerata Bonaparte! Camerata Bonaparte, mentre voi ve ne stavate al sole d'Egitto, mi fu suggerito non una, ma almeno 3 o 4 volte di fare l'uomo forte e protetto dalle baionette dei nostri soldati, di creare, come lo chiamate voi e vostro fratello Giuseppe, un concentramento di tutte le forze positive. Ma io ho ricusato. Abbiamo 2 camere dove i deputati formicolano. E se i signori rappresentanti del popolo e i loro elettori sono scontenti, beh, possono proporre un mutamento della Costituzione. Personalmente io credo che noi possiamo mantenere la calma e l'ordine e difendere anche le nostre frontiere con la Costituzione che abbiamo. Ma se i rappresentanti del popolo, senza una coazione esteriore, dovessero risolversi per un'altra forma di governo, ciò non riguarderebbe né l'esercito né la mia persona. Ma se i deputati si risolvessero per un mutamento della Costituzione in seguito ad una coazione esteriore, camerata Bernadotte, quale sarebbe il vostro contegno? Giambattista si levò in piedi. Si accostò alla porta della veranda e parve che cercasse fuori, nel grigiore autunnale, le sue parole. Lo sguardo di Napoleone trapanava il dorso dell'uniforme, scura che era soltanto dalla nostra parte. La piccola, ben nota vena sulla sua tempia destra palpitava. Improvvisamente Giambattista si volse e si accostò a Napoleone, che stava seduto, e gli posò pesantemente la mano sulla spalla. Camerata Bonaparte, io ho combattuto sotto il vostro alto comando in Italia. Ho veduto come voi preparate le spedizioni militari. Vi dico che la Francia non ha miglior condottiero di voi. Potete credere ad un antico sergente. Ma ciò che adesso vi propongono gli uomini politici non è degno di un generale dell'esercito repubblicano. Non fatelo, Bonaparte. Napoleone osservò attentamente le margherite che io ho ricamato sul tappeto della tavola e non batté ciglio. Giambattista lasciò scivolare la mano dalla spalla di lui e tornò tranquillamente al suo posto. Comunque, se voi lo tenterete, io combatterò contro di voi e contro i vostri seguaci con le armi in pugno, sempre che... Napoleone alzò gli occhi. Sempre che? Sempre che io ne riceva per questo l'incarico da parte del governo legittimo. Ah, come siete testardo! Mormorò Napoleone. Poi Giuseppina propose di partire tutti per Mortefontaine. La casa di campagna di Giulia era già piena di ospiti. Trovammo là Talleyrand e Fouché e naturalmente gli amici personali di Napoleone, i generali Junot, Murat, Leclerc e Marmont. Tutti furono gradevolmente sorpresi vedendo comparire Giambattista con Napoleone. Dopo il desinare, Fouché disse a Giambattista: «Non sapevo che foste amico del generale Bonaparte». «Amico? Beh, in ogni caso siamo imparentati», rispose Giambattista. Fouché sorrise. Certa gente è quanto mai saggia nella scelta dei propri parenti. Al che Giambattista, di ottimo umore, rispose: «Per quel che mi riguarda, Dio sa che non sono andato a cercare questa parentela». Nei giorni seguenti, tutta Parigi non parlava altro che di questo, se cioè Napoleone avrebbe osato o non avrebbe osato di fare quello. Una volta passai per caso in carrozza per Rue de la Victoire e vidi una folla di giovani fermi davanti alla casa di Napoleone che gridavano in coro ritmicamente: «Viva Bonaparte! Viva Bonaparte!» sotto le finestre chiuse. Fernando afferma che questi ragazzi sono pagati per queste loro manifestazioni di entusiasmo, ma Giambattista dice che molti non dimenticano le grosse somme di denaro che Napoleone storse a suo tempo agli stati italiani conquistati e mandò a Parigi. Quando ieri mattina entrai nella nostra stanza da pranzo, seppi subito che vento tirava. Oggi si fa quello. Giuseppe teneva fermo Giambattista per un bottone della sua uniforme, gli parlava concitato, lo voleva convincere a recarsi subito da Napoleone con lui. Ma almeno dovete ascoltarlo e allora vi persuaderete voi stesso che vuole salvare la Repubblica, diceva Giuseppe. E Giambattista: «Conosco i suoi piani e non hanno niente da vedere con la Repubblica. Per l'ultima volta vi rifiutate di stare al fianco di mio fratello?» E Giambattista: «Per l'ultima volta mi rifiuto di partecipare a qualsiasi forma di alto tradimento». Giuseppe si volse improvvisamente verso di me: «Riconducetelo alla ragione, Désirée». Ed io: «Posso farvi portare una tazza di caffè, Giuseppe? Siete tanto agitato». Giuseppe rifiutò e scomparve. Giambattista si accostò alla porta della veranda e guardò con occhi immobili lo spoglio giardino autunnale. Un'ora dopo, come una valanga, ci capitarono in casa il generale Moreau, l'antico segretario di Giambattista, Monsieur Sazarin, e altri funzionari del Ministero della Guerra. Chiedevano che Giambattista si mettesse alla testa della Guardia Nazionale e impedisse a Napoleone l'ingresso al Consiglio dei 500. «E l'ordine per far questo deve venire dal governo», insisteva Giambattista. In questa discussione intervennero rumorosamente parecchi consiglieri municipali, quegli stessi che già erano stati da noi, e manifestarono la stessa pretesa. Giambattista spiegò loro la ragione del suo contegno. Evidentemente non posso agire per ordine del Consiglio Municipale di Parigi e neppure per ordine dei miei camerati, caro Moreau. Ho un mandato del governo, oppure, se i direttori non sono più in carica, un mandato del Consiglio dei 500. Nel tardo pomeriggio, per la prima volta, vidi Giambattista in abito borghese. Aveva indossato un vestito rosso scuro che evidentemente gli era troppo stretto e portava un cappello alto, assai buffo, e una cravatta gialla artisticamente annodata. Dove vai? Volli sapere, naturalmente. A passeggio, disse Giambattista, soltanto a passeggio. Giambattista deve essere andato a spasso per parecchie ore. Verso sera comparvero di nuovo Moreau e i suoi amici e lo aspettarono. Era buio pesto quando tornò. Ebbene? Domandarono tutti. Sono stato nei pressi del Lussemburgo e delle Tuilerie, annunciò Giambattista. Forti picchetti di truppe controllano il complesso delle strade, ma dappertutto regna la quiete. Devono essere in massima parte soldati della ex armata d'Italia. Ho riconosciuto certe facce. Napoleone farà certamente loro delle promesse. Giambattista sorrise amaramente. Le sue promesse le ha fatte già da molto tempo per mezzo dei loro ufficiali. Sono tornati tutti improvvisamente a Parigi: Junot, Massena, Murat, Marmont, Leclerc, tutto il seguito di Bonaparte. Credete che queste truppe siano pronte a marciare contro la Guardia Nazionale? Chiese Moreau. Non ci pensano affatto, disse Giambattista. Ero un borghese curioso e mi sono intrattenuto lungamente con un vecchio sergente e con qualcuno dei suoi soldati. I soldati credono che Napoleone abbia ricevuto il comando della Guardia Nazionale. I loro ufficiali glielo hanno fatto credere. Moreau scattò. Ma è la più volgare menzogna che abbia mai udita. Credo che domani Napoleone chiederà ai deputati il comando della Guardia Nazionale, disse Giambattista tranquillo. E noi insisteremo perché voi abbiate a dividere questo comando con lui, gridò Moreau. Siete pronto a far questo? Giambattista assentì. Sottoponete al Ministero della Guerra questo provvedimento. Se Bonaparte avrà il comando della Guardia Nazionale, Bernadotte dovrà dividerlo con lui come fiduciario del Ministero della Guerra. Io non chiusi occhio per tutta la notte. Dalle stanze di sotto saliva un vociare confuso, la limpida, stizzosa voce di Moreau, i toni bassi di Saint-Séverin. Tutto questo è accaduto ieri. Dio mio, soltanto ieri. Nel corso della giornata di oggi continuarono ad arrivare in casa dei messi, ufficiali di tutti i gradi e da ultimo una recluta. Costui saltò giù, coperto di sudore dal cavallo, e urlò: Bonaparte, primo console, primo console! Siediti, coscritto, disse calmo Giambattista. Desiree, dagli un bicchiere di vino. Prima ancora che l'uomo si fosse ripreso al punto di parlare con ordine, entrò un giovane capitano a precipizio nella stanza. Generale Bernadotte, è stato proclamato orora il governo consolare. Bonaparte è primo console. Nelle ore antimeridiane Bonaparte si era presentato prima al Consiglio degli Anziani e aveva chiesto la parola. Il Consiglio degli Anziani, che è composto essenzialmente di degni giuristi affetti da sonnolenza cronica, aveva ascoltato con noia il suo agitato discorso. Napoleone blaterò di un complotto contro il governo e chiese che in quest'ora di pericolo gli venissero conferiti illimitati poteri. Il presidente del Consiglio, con un tortuoso discorso, gli fece intendere che doveva accordarsi col governo. Accompagnato da Giuseppe, Napoleone si recò allora dal Consiglio dei 500. Là tirava un'aria completamente diversa. Sebbene ciascun deputato sapesse molto bene che cosa significasse la comparsa di Napoleone, ci si aggrappò da principio convulsamente all'ordine del giorno. A un tratto il presidente del Consiglio dei 500, il giovane giacobino Luciano Bonaparte, trascinò suo fratello in tribuna. Il generale Bonaparte deve fare una comunicazione di vitale importanza per la Repubblica. Voci di udite, udite nei settori degli amici di Bonaparte, concerto di fischi nelle file dei loro avversari. Napoleone incominciò a parlare. Tutti i testimoni sono concordi nel dire che tartagliò un poco, che mormorò di congiure contro la Repubblica, che le sue parole furono coperte da urla e che alla fine ammutolì. Sorse un tumulto generale. I partigiani di Bonaparte si fecero strada verso la tribuna. Giambattista I loro avversari, e costoro appartenevano a tutti i partiti, balzarono in piedi, corsero alle uscite e le trovarono sbarrate dai soldati. Chi veramente abbia comandato queste truppe nell'aula per proteggere i deputati non è stato ancora chiarito. Comunque alla loro testa fu visto il generale Leclerc, il marito di Paulette. La Guardia Nazionale, che veramente aveva l'incarico di difendere i deputati, fece causa comune con queste truppe. Ben presto tutta la sala fu come una pentola delle streghe. Luciano e Napoleone stavano serrati l'uno contro l'altro alla tribuna. Una voce gridò: «Viva Bonaparte!» 10 voci fecero eco, 30, 80. La galleria, dove improvvisamente Murat, Massena e Marmont comparvero tra i giornalisti, ruggiva. E i deputati, su cui piedi montavano stivali di granatieri e che ad un tratto più non videro che canne di fucile, esultavano disperati: «Viva Bonaparte! Viva, viva!» Mentre i soldati si ritiravano negli angoli dell'aula e nella galleria arrivò il direttore di polizia Fouché con alcuni signori in abito borghese e invitò senz'altro quei rappresentanti del popolo sospettati d'aver turbato la nuova pace e il nuovo ordine a seguirlo. L'assemblea, la quale tosto si accinse in una seduta di più ore a discutere una nuova costituzione, rivelava parecchie lacune. Il presidente dette lettura delle proposte per la formazione di un nuovo governo capeggiato da tre consoli. All'unanimità fu eletto primo console il generale Napoleone Bonaparte e gli si assegnarono per suo desiderio le Tuilerie come dimora ufficiale. Parigi, 21 marzo 1804. Solo gli enti pubblici mantengono ancora il calendario repubblicano e oggi scrivono primo germinale dell'anno 12. È un'idea folle la mia di farmi portare di notte alle Tuilerie per parlare con lui. Di questo ero convinta fin da principio. Tuttavia sono salita nella carrozza di Madame Letizia e cercavo di riflettere a quello che gli avrei detto. Un orologio suonava le 11. Passerò attraverso i lunghi corridoi delle Tuilerie, penetrerò nel suo giardino, mi avvicinerò al suo scrittoio e gli dirò che la vettura correva lungo la Senna. Con l'andare degli anni ho imparato a distinguere esattamente quasi tutti i ponti, ma ogni volta che passo davanti a un certo ponte il cuore mi si ferma un attimo. Non può farlo fucilare, pensavo. Nelle acque della Senna danzavano le stelle con le luci di Parigi. Non può farlo fucilare. Non può? Lui può tutto. Ho vissuto tanti anni senza un momento di sosta. Ho ballato a feste nuziali, ho fatto davanti a Napoleone alle Tuilerie il grande inchino di corte. Ho festeggiato a casa di Giulia la vittoria di Marengo e ho bevuto allora tanto champagne che il giorno seguente Maria ha dovuto reggermi la testa sulla catenella. Mi sono comprata un abito di seta gialla e un altro color argento con ricami di perle rosa e altri tre bianchi con nodi di velluto verde. Questi sono stati i piccoli avvenimenti. I grandi, il primo dente e il primo mamma di Oscar. E ancora Oscar che per la prima volta, tenendosi alla mia mano, ha camminato traballando sulle sue gambucce grassocce e malferme dal pianoforte fino al cassettone. E allora, improvvisamente, incominciai a pensare a questi anni trascorsi. Me ne vennero in mente dei ricordi e disperatamente cercavo di allontanare il momento nel quale dovevo introdurmi alla presenza del primo console. Giulia mi ha restituito il mio libro soltanto un paio di giorni fa. Ho vuotato il mio cassettone, quel mostro di mogano che mi ero portata da Marsiglia, disse. Lo metterò nella stanza delle bambine. Le bambine hanno già tante cose loro, ne hanno bisogno. E così ho trovato il tuo libro. Ormai non è più il caso che te lo custodisca, non è vero? No, non è più il caso, dissi io e soggiunsi, o piuttosto non ancora. Dovrai registrarvi molte cose, disse Giulia sorridendo. Credo che non ci avrai neppure scritto che ho due figlie. Prima di tutto dovrei scrivere che mamma è morta, ho pensato. Fu l'estate scorsa. Ero seduta con Giulia nel nostro giardino quando improvvisamente ci si avvicinò Giuseppe con la lettera di Stefano. Mamma era morta a Genova per un attacco al cuore. Adesso siamo proprio sole, disse Giulia. Oh, ma tu, ahimè, disse Giuseppe risentito. Giulia è sua, come io sono di Giambattista, ma Dopo la morte di papà avevamo soltanto mamma che ci ricordasse com'era il nostro mondo quando eravamo ancora bambine. Sullo scrittoio di Napoleone c'è una sentenza di morte. Io gli dirò, ecco, che cosa gli dirò? Non si può più adesso parlare con lui come con tutti noi. Non ci si può più sedere se non si è invitati da lui. La mattina, dopo quell'interminabile notte nella quale ci eravamo aspettati l'arresto di Giambattista, ci fu una spiegazione fra lui e Napoleone. Siete stato nominato membro del Consiglio di Stato, Bernadotte. Nel mio Consiglio di Stato voi rappresenterete il Ministero della Guerra, gli disse il primo console. Credete che in una sola notte io abbia cambiato opinione? Rispose Giambattista. No. Ma in questa sola notte io ho assunto la responsabilità della Repubblica e non mi posso permettere di rinunciare ad uno dei suoi uomini più capaci. Accettate la nomina, Bernadotte. Giambattista mi raccontò che qui vi fu una lunga pausa. Una pausa durante la quale egli prese ad osservare attentamente l'alta sala delle Tuilerie con l'enorme scrittoio posato su teste di leone dorate. Una pausa durante la quale egli poi guardò fuori dalla finestra e scorse i soldati della Guardia Nazionale con le loro coccarde bianco-rosso-azzurre. Una pausa durante la quale egli si disse che i direttori, prima di dimettersi, avevano riconosciuto il governo consolare e che la Repubblica si era data in mano a quest'uomo per evitare una guerra civile. Avete ragione, la Repubblica ha bisogno di ciascuno dei suoi cittadini, console Bonaparte. Per questo accetto la nomina. E già il giorno seguente Moreau e tutti i deputati arrestati furono rimessi in libertà. A Moreau fu dato perfino un comando. Napoleone stava preparando una spedizione in Italia e nominò Giambattista comandante in capo della nostra armata occidentale. Giambattista fortificò la costa della Manica contro gli attacchi inglesi e comandò tutti i presidi dalla Bretagna fino alla Gironda. Trascorse gran parte del suo tempo al suo quartier generale di Rennes e non si trovava a casa quando Oscar ebbe la tosse convulsa. Napoleone vinse la battaglia di Marengo e Parigi fece tante feste da morirne. Adesso le nostre truppe sono sparpagliate per tutta l'Europa perché Napoleone, tra le sue condizioni di pace, ha chiesto la cessione alla Francia di innumerevoli territori e la Repubblica deve presidiare questi paesi.